Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Ma cosa vai a fare a Londra se devi fare il cameriere? Rimani qui con me in Italia a concimare la campagna. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ma cosa vai a fare a Londra? Di Zeppi ci introduce subito nel mondo post-Brexit. Già oggi, prima puntata della nuova stagione 2016-2017, sfioreremo un tema per molti di voi cruciale. Cosa accadrà adesso nel paese che negli ultimi anni si è imposto come la meta preferita dai nostri giovani emigranti dopo il referendum del 23 giugno? La sua uscita dall'Unione Europea significherà il suo declino quale mecca per centinaia di migliaia di giovani emigrati dall'Italia e dal resto d'Europa? La prossima settimana ci torneremo in modo più approfondito con una puntata speciale. Anche oggi abbiamo in cantiere per voi una puntata d'eccezione con tre eccellenze dell'Aspen Junior Fellows Network che riunisce connazionali under 40 in giro per il mondo. I giovani di AJF sono già stati i nostri ospiti in passato, per cui si tratta di un graditissimo ritorno. E per iniziare la frase della settimana, copyright del regista e attore Piff, stare fuori dall'Italia, viaggiare per poi tornare, ma anche forse no, vi fa solo bene, vi dà modo di capire come dovrebbero andare le cose, vi arricchisce, parole che ovviamente sottoscriviamo. E fa davvero riflettere la condizione dei giovani italiani under 30 rispetto ai loro coetanei europei, così come è fotografata questa estate dal Sole 24 Ore con il supporto di Data Giovani. Dal quadro emerge che siamo tra i peggiori nel continente per disoccupazione giovanile, dietro praticamente solo a Spagna e Grecia. Abbiamo sempre tra i giovani una forte incidenza dei dipendenti con contratto a termine, facendo peggio solo della Spagna. E siamo nella parte bassa della classifica, sopravanzando di poco la Danimarca per incidenza dei giovani tra i dipendenti con ruoli di rilievo societario, solo 1 su 3. Siamo infine i peggiori in Europa per incidenza dei part-time involontari tra gli under 30. Tra i pochi segnali positivi, la forte vocazione all'autoimprenditorialità tra i nostri giovani, che sono anche molto più disponibili della media europea, a lavorare di sera o nei weekend, altro che bamboccioni. Ma ad emergere è soprattutto il gap generazionale. Gli over 50 in Italia stanno decisamente meglio di chi ha 20 anni in meno. E ora saltiamo il riassunto delle news estive che recupereremo la prossima settimana per andare dritti alla nostra puntata speciale. Sono Laura, 34 anni, romana, laureata in economia aziendale alla LUISS, fuori dall'Italia dal 2003. Sono Alessandro Golcar, 31 anni, sono di Roma, ho lasciato l'Italia nel 2008, prima come studente agli Stati Uniti, poi per lavorare in Russia, ora sono un professore associato e direttore del centro spaziale. Sono Federico Raviglione, ho 27 anni, sono di Biella in Piemonte e ho lasciato l'Italia ancora prima di nascere, visto che sono nato a New York. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. E allora l'indimenticabile Giorgio Gaber ci offre ancora una volta lo spunto per la nostra domanda provocatoria, con cui iniziare l'intervista. Ci si sente più italiani fuori dalla penisola, Laura? Piace più essere italiani fuori dalla penisola. Alessandro? Beh, si è un po' ambasciatori dell'Italia nella propria professione. Federico? Direi che vivendo per la maggior parte all'estero ho sempre sviluppato una specie di sentimento patriottico italiano fuori dall'Italia. E allora, domanda flash per tutti e tre, prima di raccontare le vostre storie. Quanto vedete attrattiva l'Italia in un'epoca di competizione sempre più globale? Attrattiva per i talenti, imprenditori, investitori, cervelli. Laura? Mediamente attrattiva. Alessandro? Beh, molto attrattiva. Federico? Io direi che rimane attrattiva in certi settori specifici che ci invidiano all'estero. E ora le vostre storie che abbracciano il globo dagli Stati Uniti fino alla Russia. Partiamo proprio dalla Russia, dove si trova Alessandro Golcar. A Roma, la tua città, muovi i primi passi iscrivendoti alla laurea in ingegneria aerospaziale. Perché una laurea così impegnativa? Io sono sempre stato appassionato sin da bambino, astronomia, poi di volo spaziale, missioni. E ho deciso di fare il mio lavoro. E anche Laura toglie i suoi primi passi, li muove a Roma, ma alla LUISS, con una più classica, se vogliamo, laurea in economia aziendale. Perché? A quei tempi mi interessava molto avere molte carte

ancora una grande fonte di eccellenze, di tante cose positive, per quanto forse da italiani in Italia ci piaccia molto piangerci addosso, diciamo. Diciamo il post-Brexit, mamma mia, speriamo che cambi poco, questa è la speranza, diciamo, che si sente più forte da Londra. Credo che molti inglesi si siano resi conto che questo passaggio sia stato un grande errore, se rimaniamo ancora tutti in attesa per capire quali saranno i prossimi passi. Torniamo ora a dare il benvenuto a Lucio Stanca, presidente di Aspen Junior Fellows. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Col vostro network siamo giunti alla seconda puntata speciale in quest'ultimo biennio. Tra poco ricordiamo anche cosa sia Aspen Junior Fellows. Prima però una domanda per lei. Personalmente mi sono fatto l'idea che stia cambiando molto questo mondo di giovani talenti italiani all'estero. Se fino a 4-5 anni fa era effettivamente un mondo di talenti o cervelli in fuga, spesso arrabbiati con l'Italia, oggi mi sembra sia sempre più una generazione globale, consapevole dei propri mezzi, che sceglie i paesi migliori per fare carriera, conoscendo le difficoltà della penisola. Meno arrabbiati, più pragmatici e internazionali. Condivide questa analisi? Sì, esattamente quello che penso anch'io. L'ha detto uno dei tre ragazzi, non si sentono in fuga. 10 anni fa scappavano dall'Italia, erano delusi dall'Italia, cercavano delle opportunità che non trovavano nel nostro paese. Oggi sono più pragmatici, accettano la dimensione internazionale del mondo e del mondo del lavoro in cui loro operano. Quindi diciamo che è un atteggiamento più positivo. Le chiedo anche di ricordare brevemente cos'è Aspen Junior Fellows. È un gruppo di giovani, un'ottantina di giovani, 40% donne, 25% lavorano all'estero, che noi selezioniamo e che aiutiamo attraverso un confronto delle loro esperienze, delle loro idee, discutendo dei temi più importanti a livello nazionale e internazionale. Aiutiamo a diventare i leader del futuro. Insomma, è un percorso di formazione e di sviluppo delle loro capacità. Lucio Stanca, lo abbiamo ascoltato prima da Laura Toia, ha toccato il tema Brexit. Secondo lei può rappresentare la Brexit paradossalmente un'opportunità per l'Italia in termini di riattrazione dei nostri migliori talenti oltremanica? Vede insomma un paese pronto ad offrire loro qualcosa, perché altrimenti il rischio è che prendano altre strade. Premesso che Brexit non si sa quando, come, insomma è ancora molto da definire. Certamente qualcuno dei giovani potrà anche pensare di lasciare il Regno Unito. L'Italia, ma non solo per la Brexit, lo sforzo che deve fare è cercare di attrarre i maggiori talenti da tutto il mondo, non solo dal Regno Unito, proprio perché oggi la competizione è sulla capacità di dare opportunità ai migliori, soprattutto ai giovani di grande potenzialità. Lo ha detto lei stesso, e oggi con le storie di Alessandro, Laura e Federico in qualche modo ne abbiamo avuto conferma. Abbiamo tanti professionisti all'estero con un background estremamente internazionale, potenziali leader futuri anche in Italia. Lei ha detto l'Italia deve diventare più attrattiva. Quanto però, secondo lei, lo sta davvero diventando? Quanto l'Italia ha capito che questi giovani potranno e forse anche dovranno essere la nostra futura classe dirigente? Lo stiamo capendo. Anche perché siamo più consapevoli di tante eccellenze che l'Italia ha e quindi cominciamo a impiegare più energia, più attenzione, più marketing. E io penso che questa è la strada giusta, insomma in definitiva quando vediamo le università italiane con una percentuale ormai significativa di studenti stranieri e di professori stranieri, ecco, quella è la strada da percorrere. Io ringrazio Lucio Stanca, presidente di Aspen Junior Fellows, e c'è la nostra domanda di rito per Federico Raviglione. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Magari l'avete già capito, io sono un grande sostenitore della cosiddetta esperienza all'estero, che sia lunga o corta, però basta che questa sia ragionata e anche parte di una più ampia strategia. Bisogna uscire dalla propria comfort zone, diciamo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una Junior Bank Sector Analyst per la European Banking Authority a Londra, scadenza per il CV 25 settembre, info su eba.europa.eu. Un addetto stampa alla IRENA, International Renewable Energy Agency, sede di Abu Dhabi, Emirati Arabi, scadenza per il CV domani, info su irena.org. E infine un Senior Legal Officer all'ONU a New York, scadenza per il CV 17 ottobre, info su careers.un.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi portiamo a nord, nella lontana Norvegia, per parlarvi di un blog che racconta il paese scandinavo anche agli aspiranti migranti. Lo facciamo con la viva voce di Yara Heidenberger, blogger specializzata nel raccontare la vita norvegese. Sentiamo. Mi è venuta l'idea quando ho cominciato a realizzare che stavo imparando moltissime cose nuove della cultura norvegese e soprattutto avevo in questo modo la possibilità di, diciamo, paragonare, cioè vedere le differenze culturali, linguistiche in tutto e per tutto tra l'Italia e la Norvegia. Quindi ho detto, siccome ho avuto questa esperienza, perché non condividerla? Perché espatriare in Norvegia? Cosa offre? La Norvegia offre sicuramente un ambiente lavorativo molto dinamico, bisogna sapere il norvegese, per cui per chi sa il norvegese è abbastanza semplice trovare un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. Ovviamente il settore del petrolio, e in particolare appunto l'oil and gas, il settore in cui adesso in questo momento un po' di crisi, ma comunque che sviluppa di più lavoro in Norvegia. E perché qui c'è una pace, un contatto con la natura molto forte. Hai visto aumentare l'immigrazione italiana in Norvegia con la crisi o comunque negli ultimi anni? Premetto che io sono qui da 2 anni, però ho conosciuto molti italiani che sono da decine di anni qua in Norvegia e hanno detto tutti che negli ultimi 5-6 anni c'è stato un incremento degli immigrati italiani qui in Norvegia, specialmente a Oslo. Quali consigli pratici dai nel tuo blog a chi vuole trasferirsi in Norvegia? Imparare il norvegese, almeno un minimo, una base per poter scrivere un curriculum, una lettera, delle mail e un pochettino confrontarsi, non solo perché il mercato del lavoro seleziona appunto le persone che parlano norvegese. Dopodiché i consigli che do è diciamo cercare di adattarsi alla mentalità norvegese, che significa per esempio appunto fare molti sport all'aperto, piuttosto che anche il modo in cui loro, diciamo, socializzano è diverso, attraverso attività culturali, volontariato e tanti altri modi per fare amicizia qua con i norvegesi, sono un po' diversi da quelli italiani, quindi mettersi un po' nella mentalità del norvegese. Oltre al blog c'è anche un canale YouTube, lì invece cosa racconti? Nel mio canale YouTube racconto soprattutto le particolarità della Norvegia. Per maggiori informazioni potete cliccare su yaraideblog.com. Un motivo per restare o tornare. Anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione lavoro relativi a personale altamente qualificato possono accedere al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, lo specifica l'Agenzia delle Entrate. Tali spese vengono equiparate a quelle per il personale dipendente e dal 20 luglio è possibile costituire una SRL qualificabile come startup innovativa senza bisogno di notaio. Basta effettuare una semplice operazione online. Per consentire questa procedura è stata sviluppata una piattaforma governativa startup.registroimprese.it che permette di redigere lo statuto dell'azienda, che dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soci. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn con il gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internectivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo voi. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24 con una puntata speciale a tema Brexit. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.